21h. Brussellando. Viaggio tra i libri, le musiche, le poesie, l'arte, l'agenda culturale italiana ed europea. Presentata da Radio Alm e condotto in studio da Mary D. Con la partecipazione straordinaria di Georges Laurent. Regia di Danny M. Cari amiche e cari amici, è martedì, come sempre qui con Brussellando, Mary D ai microfoni, in compagnia di Georges Laurent. Eccomi. Fiordaliso e Danny M in regia. Ciao. Ciao. Siamo arrivati. Siamo arrivati al mese di marzo, forse perciò che probabilmente ci sarà qualche anomalia durante la serata. Magari proprio a causa di questo mese così pazzerello. Ma in Italia, e poi critichi il nostro ciao, e te fai dei quei suoni gutturali. No, era un modo perché ero indeciso di parlare, ma visto che mi costringete a parlare, parlo e dico: assolutamente. Ma quale marzo pazzerello? Non trovi che sia pazzerello marzo? In Italia. Qui è abbastanza simile a febbraio. Siamo solo agli inizi, dai, sono il 3 marzo. Infatti si è resa conto di qualche differenza. Tra l'altro 3-3-2009, magari è una data magica? 0-3-0-3-0-9? 0-3-0-3-0-3, no, forse dovrebbe essere 0-3-0-3-0-3. Però il 9, 3x3 è 9, 0-3. Il 3 marzo 2003 è stata una bella data, 0-3-0-3-0-3. Cos'è successo? Io mi stavo per laureare in quel periodo, quindi ero 0-3-0-3-0-3? No, bisogna andare il 17 marzo di 6 anni fa. Io mi sono laureato... Meglio che non lo dici, Giorgia. Forse era già caduto, mi pare. Tu c'era già caduto? Sì. Era già finito. Giorgia, l'America l'avevano scoperta. L'America l'avevano scoperta. Infatti, avevano già importato le patate e i pomodori. No, sì. Allora, sapevate che. Allora, vabbè, insomma, ci sono tantissimi eventi e stasera non ci possiamo dilungare troppo in chiacchiere, però è il mese di marzo. Marzo significa tante cose. Significa probabilmente. Dobbiamo aspettarci giornate un po' particolari, dove probabilmente usciremo al mattino col sole oppure con la neve, rientreremo forse col sole oppure con la neve, insomma ci possiamo aspettare di tutto, però è sicuramente anche il mese della primavera, sarà il mese in cui ricambieremo l'ora solare per l'ora legale, quindi ci aspettano tante belle novità. Finalmente, speriamo, terminerà questo lungo inverno per aprirci a quelli che sono poi le beltà della primavera. Però marzo è anche il mese che ricorda, e oggi è un secolo, comunque quest'anno è un secolo che si ricorda, quella che è stata la festa delle donne. Pensate, la prima festa ricorse il 28 febbraio del 1909. Dopo un secolo evidentemente tante cose sono cambiate, e questa sera di sicuro Radio Alma e Brussellando in particolare, e Mary D, che si sente essere un orgoglioso esponente delle donne del terzo millennio, non vuole fare quella che è un'analisi storica di quello che è stato il movimento delle donne nel corso del tempo. Parto da un fatto accompli, dal fatto che ci sono diritti che finalmente sono stati acquisiti e che sicuramente l'evoluzione che ha distinto gli uomini dalle donne è stata diversa. Eppure nel tempo e nella storia tante sono le donne che hanno caratterizzato il mondo dell'arte, il mondo della politica, il mondo della filosofia, il mondo della religione e sicuramente anche quello della musica, come i nostri amici del jazz fra poco ci dimostreranno. E probabilmente tanto ancora resta da fare in quello che è l'affermazione al femminile, probabilmente perché gli uomini hanno sempre saputo che la donna nel paradiso terrestre ha morso il frutto dell'albero della conoscenza 10 minuti prima, quindi da allora hanno sempre conservato questo vantaggio e in questo modo hanno... Giorgio mi guarda un attimo perplesso. Questa veramente non me l'aspettavo. Vedi questa sera. Allora, quindi le donne sono più consapevoli, hanno 10 minuti di consapevolezza. 10 minuti di consapevolezza in più, che a volte possono essere sicuramente determinanti, anche se poi così non è stato, perché poi voglio dire, probabilmente solo da qualche decennio, e in Italia poi in particolare, e nell'Italia meridionale, terra dalla quale io provengo ancora forse con più ritardo, tutta una serie di consapevolezze sono sicuramente arrivate più tardi, ma tutto sommato la consapevolezza di poter ancora avere 10 minuti di vantaggio su un uomo restano tuttavia importanti. Però se leggiamo così la storia, dobbiamo anche accettare che questa donna che era così consapevole 10 minuti prima dell'uomo ha poi partorito 2 figli maschi. Per l'appunto. E quindi poi questa consapevolezza è rimasta da sola. Consapevole, ma no, sola. In realtà è stata una consapevolezza di cui non era proprio consapevole, che la consapevolezza è arrivata soltanto nel tempo. Ma io non so se era consapevole, cioè io credo che la consapevolezza sia un'arma a doppio taglio nel caso specifico, perché lei ha mangiato la mela, ha detto oibò, e ha detto e che faccio, rimango da sola? No. Ed è me, no, mangia un po' sta melina. Perché? Ho detto che non si può mangiare. Ma non mangia la melina. Ma no, non si può mangiare la mela. La mela non la voglio mangiare. Ma chissà se poi fosse effettivamente la mela. Voglio dire, anche lì tanto è stato detto, tanto è stato scritto. Eppure chissà questo frutto della conoscenza quale possa effettivamente essere. Beh, credo che non so perché hanno scelto la mela. È stata scelta la simbolicamente, mela, dai, tu che sei. Esiste in tutti i paesi del mondo. Ah, ecco. Esiste persino in Belgio. La mela esiste in tutti i paesi del mondo? Sì. Pure nei paesi africani? Sì. Beh, quindi tu stai sostenendo in qualche modo che chi ha scelto la mela in realtà conosceva l'esistenza del mondo tondo. Eh certo, se Dio è onnisciente, è qui, ora, è nel passato, nel presente, nel futuro, quindi già sapeva. Beh, io comunque avrei scelto il frutto della passione, non la mela. Beh, la donna stessa è frutto della passione, tanto è stato detto nel Medioevo, voglio dire, di questa donna comparata. Ora Adamo, ora Eva. È frutto della sofferenza. Ma, se ti togliessi una costola non saresti felice, questo è... Quindi tu reclami ancora la tua costola? No, io non la reclamo proprio una costola, sto bene con le costole che ho, anzi se mi togliessero forse qualcuno sarebbe più libero, però dico semplicemente che non è che uno si diverte, che faccio oggi, mi tolgo una costola, va. E poi che cosa esce Eva, tra l'altro, in tutto questo, tra l'ammirazione, lo stupore e magari anche la confusione? Sì, infatti. E poi mi ricordo invece di un personaggio di cui si narra, un personaggio che abbiamo citato... proprio due giorni fa, se non sbaglio, ieri sera abbiamo citato un personaggio, Gabriele D'Annunzio, che si fece togliere una costola proprio per sentire, no, per tutt'altro motivo che non è il caso di dire in radio, però insomma sembra che si sia fatto togliere una costola. Io non ho mai accertato, tanto amava le donne, voglio dire, proprio dal nostro amato Vate. Credo che non fosse perché amava le donne, credo che fosse per allontanarsi in qualche modo, o comunque per seguire le proprie perversioni, ma questo è un altro paio di maniche. Forse perché inseguiva ancora la donna d'oro. È la grande Tamara de Lempicka. Lempicka. Io preferisco Lempicka e non Lempicka o Lempicka. Ragazzi, vogliamo fare un saluto ai nostri amici di ieri sera? Salutiamo Cristina Bobino e Alessandro Seri, che sono stati con noi in una versione eccezionale di Brussellando che ha avuto luogo presso la libreria Piola ieri sera alle ore 19. Ringraziamo ancora nuovamente Cristina ed Alessandro, e ovviamente l'occasione ci è gradita anche per rinnovare quella che è la nostra stima per Cristina ed Alessandro, e fargli un grande in bocca al lupo per il prossimo festival della poesia, che avrà luogo a Macerata dal 18 al 22 maggio, di cui entrambi ci faranno avere presto notizie. Sì, è stata una bella presentazione, devo dire, è stato molto divertente. Io lo ringrazio personalmente per i libri che mi hanno consegnato, e li ringrazio anche per la dedica, anche se non so cosa c'è scritto, perché Meridi si è scordato di portarmi, quindi non so. Li dimenticati sulla scrivania, perdonami. Io vi ringrazio anticipatamente. Ah, ecco, vedi che ci aveva pensato qualcuno. Arriva... Oh, che bello! Ah! Allora, era nella tua borsa, hai capito. Mancano anche i soldi, però. Come si suol dire, il resto mancia, Giorgio. No, il resto manca. Cioè, mi hai messo una il resto manca. Scusa, noi abbiamo fatto la consegna a domicilio, le spese di spedizione, Giorgio. No, non ti preoccupare, il resto sarà presto saldato. Allora, vuoi leggere la dedica, dai, oppure vuoi che sia una dedica personale? Non la vuoi condividere con noi? Ah, che bello. Dai, condividiamola. Delle belle dediche. Non la vogliamo condividere. Preferisco condividere quella... Dai, una delle due. Che parla... No, quella di... Intanto che tu decidi, io Alessandro. Volevo. Vai, hai deciso? D'Alessandro, che parla del dubbio dei nomi e delle certezze dell'armonia, bellissimo. Ieri sera Giorgio, ragazzi, è stato bravissimo. Non che avessimo dubbi, però ieri sera è stato magistrale nella conduzione di questa presentazione di Cristina e di Alessandro. È stato bravissimo. Mamma mia. Per darvi un esempio di una delle protagoniste che a mio avviso probabilmente non dimenticate, ho scelto un personaggio che tanto ho amato in gioventù e che mi fa piacere ricordare questa sera, che è Eleonora d'Aquitalia. Non guardarmi così. Bene, ascolto con piacere ciò che hai da dire su Eleonora d'Aquitalia. Io ruberò soltanto un minuto. È stato uno dei personaggi che durante lo studio della storia medievale mi ha incuriosito tantissimo, non perché non mi piacesse Giovanna d'Arco, ma forse Giovanna d'Arco era più scontato come personaggio e arrivò pure 300 anni più tardi. Eleonora d'Aquitania invece è stata pensata l'unica donna ad essere in grado nel Medioevo, e parliamo ancora del tardo Medioevo, quindi 1122-1204, queste date di nascita e di morte di Eleonora d'Aquitania, che fu due volte regina. Una volta regina di Francia, in prime nozze con Luigi VII, e la seconda volta invece con uno degli Enrico. Sapete, gli Enrico inglesi sono talmente tanti che ora mi sfugge il nome dello sfortunato Enrico, tant'è che però ci ricordiamo bene dei figli, Riccardo Cor di Leone e Giovanni Senza Terra. Se non avessimo avuto Giovanni Senza Terra, non avremmo forse nemmeno mai avuto la Costituzione inglese del 1215, la cosiddetta Magna Carta. Mi piace ricordare Eleonora perché fu sicuramente una donna ribelle, fu una delle prime, pensate, si presentò durante la seconda crociata a cavallo con al seguito tantissime dame, si presentò addirittura con le armi, l'armatura, e ovviamente ne uscì anche vincitrice. Fu una delle donne che tanto fu ovviamente discussa e chiacchierata. Lei non voleva essere trattata come una moglie, bensì come una regina. Portava dietro con sé i suoi poeti, le sue dame, organizzava i suoi divertimenti, oscurava il re, perché anche senza far nulla il sole è più brillante della luna. A corte addirittura si sospetta che fosse lei a prendere le decisioni, perché pare impossibile che questo suo consorte riesca a fare qualcosa riesca a decidere qualcosa, mentre lei sembra in grado di decidere tutto. Tant'è che poi a corte fu definita Alienor, l'estranea, l'aliena. Lei che invece andava molto fiera di questa sua definizione. Ovviamente questo matrimonio va in frantumi, e pensate, uno dei motivi fu che Luigi VII non fu in grado di avere eredi maschi, ma all'epoca si pensava fosse colpa delle donne. Più tardi invece si è scoperto che così non era, perché invece con Enrico ebbe quattro maschi, quindi da qualche parte il problema doveva pur... Si scoprite che erano un problema maschile. Ma forse dipendeva tutto dal cuoco. Dal fuoco. Cuoco? Quale dal cuoco di corte. Ma no, magari dalla cicogna, ragazzi, scusate. No, allora, scusa, io ti ho lasciato dire questa fesseria, però va bene. Dai, non è vero che dipende dall'uomo. Dai, perché? Da chi dipende? Oh, si dice, io ho detto, cioè, non so cosa avete pensato, sì. Però, sì. Però si dice che dipende anche dalla quantità di sale. Se tu mangi più salato o più dolce, cioè più dolce viene fuori un uomo, cioè nasce un bambino, no, e più salato. Mi dispiace, siamo su altre all'inverso. Onde. All'inverso. Tu vuoi dire che le donne nascono dalla dolcezza. Giorgio, per caso se uno mangia piccante? E lì c'è qualche problema. Non posso risponderti perché insomma ci sono anche degli ascoltatori. Ci rifacciamo ad annunzio. No, io stavo pensando all'australiana, che era questa malattia che in realtà appunto faceva nascere più donne che uomini. Questo chissà come mai accadeva. Comunque fra poco abbiamo un ospite al telefono, una giornalista italiana che potrebbe raccontarci 30 anni di storia in tre paesi diversi, in Inghilterra, in Belgio ed in Italia, corrispondente ANSA per tanti anni dalle più importanti sedi all'estero ed in Italia. Maria Laura Franciosi ci racconterà fra qualche minuto quella che è la sua storia europea. Intanto... volevo anche raccontarvi un po' dell'azienda, perché è ricchissima. Finalmente, come dicevamo qualche settimana fa, la primavera è vicina, gli eventi sono tantissimi e vale la pena ricordarli. George. Perdete ogni speranza o voi che entrate. Anzi, lasciate ogni speranza o voi che entrate. E vabbè, ho avuto un attimo... Dai, già vuoi che lasciamo ogni speranza? No, ma è che mi ha guardato malissimo perché ho detto che lascia... Ma non tu, è Fiordaliso. Io stavo assorta, stavo pensando ancora ad Eleonora. È vero, lasciatemi in speranza, però cioè, devo proprio... Non posso inventare niente. Beh, allora, visto che non posso inventare niente, lasciamolo inventare a qualcun altro. Questo qualcun altro è... Chi è altri? Chi altri può essere se non Roberto Benigni? Roberto Benigni, che è il mercoledì 11 marzo, segnatevi questa data, mercoledì 11 marzo alle 20 al Palais des Beaux-Arts, ci racconterà in quel modo poetico, in quel modo sentito e assolutamente emozionale le gesta di un personaggio. Un personaggio che ha scritto poi una commedia, la Divina Commedia, e quindi tutto Dante Benigni, l'11 marzo alle 20. È inutile, io non ho nessun bisogno di presentazioni, insomma, è stato un successo talmente grande. Addirittura mi ricordo che quando lo fecero vedere per la prima volta in Rai fu una cosa emozionante, perché credo che fosse al Quinto Canto, era evidentemente una registrazione, e al Quinto Canto lui, mentre declamava il Quinto Canto, a un certo momento si emozionò tant'è che se voi ascoltate la registrazione a un certo momento sentite che lui si emoziona e poi c'è un attimo di stacco, veramente un mezzo secondo, un millisecondo di stacco, e poi cambia la voce, cioè sempre lui però con una voce diversa. Quindi io immagino che sia stato registrato in un momento successivo, perché non poteva essere che avesse cambiato così il tono. E quindi è proprio una persona che riesce a dare non solo un senso, però riesce, credo veramente, a declamare la Divina Commedia in un modo che tutti possono capire, perché non è semplicemente uditivo, è proprio emotivo, è una forza, un'energia che parte da Benigni e raggiunge tutti quanti. Quindi per chi ha la possibilità, insomma, io credo che sia un'occasione da non perdere. Assolutamente. Questa settimana iniziano anche quelle che sono le fiere del libro. Come lo scorso anno avremo la Foire du Livre di Bruxelles, che avrà luogo a Tours et Taxy dal 5 al 9 marzo. Il tema scelto di quest'anno è ugualmente legato a questa crisi, che inevitabilmente ha anche le sue ripercussioni sul mondo letterario, sul mondo creativo, tant'è che il titolo di questa 39esima edizione è Crisi e creazione. La serata sarà aperta da Jean Ziegler e Pierre Mertens. La serata di inaugurazione avrà luogo a Tour et Taxy in Avenue du Port 1000 Bruxelles, e dalle 10 alle 19 ci sarà la notturna giovedì. Invece venerdì avrà luogo fino al 22, quindi da giovedì 5 fino a lunedì 9 marzo. Il prezzo per avere accesso alla fiera è di 7 euro per tutti quanti noi, invece 4 euro per gli studenti, e qualora ci si organizzasse in gruppo con un minimo di 10 persone, il prezzo sarà ugualmente di 4 euro. Siamo invece alla seconda edizione della Foire Off, di cui tanto parlammo anche lo scorso anno, organizzato da Patrick Louis e Hassan. E di cui molto parlerà, e ha parlato e parlerà ancora, la Tela Sonora, che ricordiamo tutti il venerdì. Quindi cogliamo l'occasione anche per salutare Gabri T, di fare in bocca al lupo per quella che sarà sicuramente questa settimana. Mi raccomando, siamo con te, con lo spirito. La serata, le varie serate avranno luogo a Rue de Lescaut 60 dalle 14 fino all'1 del mattino. L'ingresso è gratuito. Rue de Lescaut, dove si trova? Hai ragione, Daniele, si trova a Molenbeek Saint-Jean. Per chi ne volesse sapere di più, www.le-off.be. E come scordare, dopo 7 giorni si riposò, il 7° giorno si riposò, e poi arrivò a proposito di creazione e poi arrivò l'ottavo, l'ottavo è l'ottava notte delle donne, la notte al centro culturale Scarbeck. C'è un interessante evento, si parla di femminilità, identità, le femmine nel loro rapporto con loro stesse, in interazione con le altre, sono esseri di amore, di contatto, di tenerezza, di domande e di espressioni. Attraverso gli anni le donne sono sempre state il simbolo di valori importanti della nostra società e delle istituzioni. E quindi sabato 7 marzo dalle ore 15 alle ore 24, che per i belgi insomma è anche abbastanza tardi, al centro culturale di Scarbeck, che è in Rue de Locht. Bene, avrete un sacco di eventi, un sacco di manifestazioni diverse, esposizioni, concerti, danza, teatro, conferenze, letterature, stand bar, un sacco di cose. Vedi, c'è un po' di musica che ci fa da ausilio. Aspettate. Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi, e non andiamo via ma nascondiamo del dolore che che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo tre con noi, siamo. E voilà, eccoci qui nuovamente. Questa sera, scusate, ma c'è un leggero brio più del solito. Voi direte, c'è sempre il brio, questa sera ancora di più. Colgo l'occasione per salutare Stefano, che è arrivato qui con noi questa sera. Salutiamo Paolo, sappiamo essere in missione, quindi in bocca al lupo, torna presto. Missione per Brustellando. Emissione per Brustellando, magari alla ricerca di nuovi poeti, di nuovi scrittori, chissà. Anzi, forse di nuovi jazzisti. Esatto, di nuovi musicisti. Noi jazzisti, è vero, perdonatemi, una piccola deviazione. Allora, ritorniamo un attimo agli eventi, perché fra poco abbiamo il nostro ospite. Proprio qui, alla Maison de Culture, che è il centro culturale che ospita la nostra sede di Radio Alma, dal 19 marzo e fino al 17 aprile c'è il Festival delle Arti Urbane, Street Forms, in cui ci saranno non solo esposizioni, ma anche film, dibattiti, performance, concerto e, per chi vuole, Hip Hop School. Bello. E certo, dal 19 marzo all'11 aprile, dalle 13 alle 16.30, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, nei weekend dalle 14 alle 18. Potremmo dare un compito a Stefano e Paolo, di scoprire le radici dell'hip hop, come si evolve. Potremmo andare a imparare qualcosa anche noi lì, sicuramente. Come no. Allora, Bruxelles, città delle parole 2009. Dappertutto in Belgio, soprattutto a Bruxelles, che è la città delle parole di questa edizione 2009, abbiamo personaggi appassionanti a disposizione per dibattiti di qualsiasi tipo. È una campagna che punta alla decolpevolizzazione della lingua francese e di quello che si è sviluppato su un asse educativo, culturale, economico, sociale e politico. E c'è la possibilità di mettere l'accento sulla ricchezza, il rigore, ma anche la leggerezza che ci ispira questa lingua che è assolutamente bella, sì, è vero, è molto fiordaliso. Ricca. Sì, ricca, poi? Filosofica, anche. Niente, nessuno parla di sonorità. Eppure la sonorità della lingua francese, quella che fa innamorare, è la sonorità della lingua francese. La lingua italiana, pur essendo bella, è più chiara, più limpida. Però la lingua francese ha un suo modo di fare che è molto bello. Beh, a me piace tanto. E il 20 marzo è la giornata internazionale della lingua francese, quindi aprite bene le orecchie. E che verrà condiviso ufficialmente, udite, con Francia, Quebec, Svizzera e Senegal. Oh, i paesi della francofonia. Quindi ricordiamocelo, dal sabato 14 marzo alla domenica 22 marzo, però questo è l'evento che si svolge appunto a Bruxelles in questo periodo. Se volete saperne di più, andate sul sito, che è www.lalanguefrancaiseenfete, senza accenti, senza liaison, senza sedie, senza si niente, è una lingua per la langue française en fête, e enfete.be. Maria Laura. Allora, buonasera. Benvenuta a Radio Alma, Brustellando. È davvero un piacere averti qui, nostra ospite, sebbene solo al telefono. Il piacere è mio. Conosco Radio Alma da talmente tanti anni che fa piacere di collaborare un po' con voi. Allora, questa sera Brustellando ha dedicato l'emissione alle donne. Abbiamo voluto però dedicare ovviamente questa puntata a tutte le donne che nel corso della storia hanno saputo far parlare, nonostante quello che potesse essere il retaggio del tempo. Quindi vogliamo dare un'impronta totalmente nuova, vogliamo dire finalmente le donne hanno una loro indipendenza, hanno una loro posizione, senza andare poi troppo nel dettaglio, e dare per scontato che ci possa essere un valore aggiunto, che ci possano essere esigenze anche al femminile. So che tu hai una bellissima storia europea che ti vede protagonista già da un trentennio in tre diversi paesi, in Inghilterra, l'Italia ovviamente paese di origine, e poi da qualche tempo anche il Belgio. Quindi io volevo un po' sapere da te questa tua storia europea. Come giornalista sono sempre stata molto curiosa, interessata alla gente, e il giornalismo offre la possibilità di incontrare tante persone e di conoscere tante storie e anche di raccontarle, quindi, e questo è stato un po' il mio interesse. Ho lavorato 25 anni all'ANSA, ho collaborato con vari giornali, ho lavorato parecchio appunto in Inghilterra, come tu racconti, e sono a Bruxelles da 16 anni oramai, e sempre ho lavorato per l'ANSA, ma anche per altre organizzazioni, e appunto l'interesse mio è proprio conoscere la gente, e voilà, ne ho conosciute tante di persone in questi anni. Anche un'esperienza bellissima per me in Belgio è stata quella della conoscenza di tanti italiani qui, e soprattutto gente che aveva lavorato nelle miniere. Poi appunto ho tirato fuori un libro da tutti i racconti di queste storie. 150 persone ho intervistato, minatori, famiglie, eccetera, ed è venuta fuori una storia italiana in Belgio, molto molto bella, devo dire. Per quanti non lo sapessero, stiamo parlando ovviamente di questa tua immensa pubblicazione Per un sacco di carbone, che veniva edito proprio nell'occasione del 50° di quella che fu l'indimenticata tragedia di Marcinelle del 56. Infatti sono molto felice di aver diciamo potuto informare su una storia che pochi conoscevano in Italia, la storia appunto dell'avvio di tanti minatori in Belgio, che poi hanno trovato anche qui un lavoro, una sistemazione, molti sono rimasti qui, ma il lavoro è stato duro e anche doloroso in molti casi, come nella tragedia di Marcinelle. Però la bellezza di questi incontri è proprio il fatto di incontrare, di trovare delle persone stupende. Ognuno ha una storia, ognuno ha una sua diversa storia, ma sono tutte storie bellissime che vanno ricordate, perché il mondo non può dimenticare queste cose. Ecco perché appunto a me interessa molto far sapere queste esperienze. Anche a Londra ho fatto tantissimi incontri e anche lì ho conosciuto moltissima gente, ho fatto conoscere delle realtà e sono, devo dire, molto, molto felice. Il fatto di aver lavorato e continuo ancora a lavorare, anche se sono da un po' di anni in pensione, però continuo ad avere attività, eccetera, perché non riesco a fermarmi. Meno male, perché meno penso male. Che la creatività, insomma, è indispensabile, è importante. Ed è interessante, appunto, anche adesso mi occupo molto di formazione di giornalisti in Europa. Qui a Bruxelles c'è un grandissimo numero di giornalisti, il maggior numero di giornalisti stranieri nel mondo, sono più di 1200 che vengono qui per coprire le istituzioni europee, e poi ce ne sono altri che vengono qui per capire che cos'è questa Europa, che cos'è l'Europa che vogliamo. E quindi anche spiegare un po' è anche interessante per me, e così ho conosciuto migliaia di giornalisti che vengono qui e gli si spiega un po' di idee, di concetti, si scambiano impressioni e questo, diciamo, aiuta anche ad aprire il proprio mondo, aprire le proprie idee e permettere che le idee nuove passino anche in altri paesi. E credo di conoscere giornalisti in tutti i paesi europei, in vari paesi non europei. Adesso mi sono concentrata sull'Asia, India, Cina, Corea. Va bene, nuove potenze emergenti, così definite, nuovi giganti. Perché effettivamente sono realtà nuove, e per una persona che era abituata a vivere in un paese soltanto, appunto questa apertura è importantissima. Infatti tutti i giovani, qualunque sia la loro attività, io li incoraggio ad andare fuori, poi ritornare, ma andare fuori, fare un'esperienza fuori dal loro paese, perché è importante capire, aprire questa... Assolutamente. Maria Laura, dimmi. Ho una domanda per te. Dimmi. C'è Fiordaliso che in questo momento sta disegnando neuroni con sinapsi, non ho ben capito. Però... Aspetta. Non ti... Aspetta, ripeti. No, stavo... non c'entra. La domanda è questa. Fiordaliso, con una regolarità spaventosa da orologio svizzero, ogni 137 giorni mi chiede... 137, non sono 6 mesi, sono 180, anzi sarebbe 183 giorni, 6 mesi. Ogni 137 giorni mi chiede, mi fa una domanda alla quale faccio sempre fatica a rispondere. E mi dice, percepisco la democrazia come una cosa estremamente fragile. E ho sempre paura che cada da un momento all'altro. Siccome lei è ungherese di origine, questa cosa ha anche un fondamento. Allora io volevo da te che hai conosciuto la storia, nel senso che l'hai anche descritta dai miniatori, quindi da quell'Europa che non esisteva, all'Europa che esiste adesso. È veramente così? È la paura di Fiordaliso, una paura fondata, o secondo te siamo ancora molto lontani dal periodo? È fondatissima, e... ed è estremamente importante mantenere questo importante fiore che abbiamo in mano, mantenerlo sempre fresco e mantenere, fare in modo che soprattutto le nuove generazioni possano capirlo. Il rischio effettivamente è grosso, da un momento all'altro questo fiore appassisce. E allora bisogna che possono fare le donne, questo devo dire, le donne hanno un senso molto, molto concreto della vita, e questo è un grosso vantaggio. Però capiscono anche, cioè si interessano a quello che succederà dopo, quindi non è soltanto il momento, ma vogliono che diciamo questo bene che tu hai chiamato, appunto, che tu chiami democrazia, che è il bene più grande che ci sia, possa continuare, non possa, e credo che sia il rischio di vederlo scomparire è concreto, cioè ognuno di noi deve fare un grosso sforzo, ma ogni giorno nel lavoro, per essere pronti a mantenere questo fiore fresco. E bisogna che ognuno, e questo è un messaggio estremamente importante, ognuno nel suo piccolo, il piccolo lavoro che fai, lo faccia al meglio possibile, perché tutto il sistema ruota sull'uomo, sull'uomo e sulla donna, sulle persone. E se il sistema, e se le persone cominciano a dire, beh, no, non fa niente, a tagliare gli angoli, a cambiare le regole del gioco, il gioco si rompe, ma in maniera veloce, ed immediatamente comincia appunto una caduta verso il integralismo, verso quello che, tutti gli elementi tutti gli ismi che noi possibili e immaginabili, che non vogliamo, appunto, cioè la democrazia è un bene prezioso, quindi bisogna curarla, non è che venga da sé, sono le persone, che significa il dominio del popolo, e la gente deve poter avere la possibilità di esprimersi, di parlare, e questo, e di capire anche che cosa vuole, fare al meglio possibile il proprio lavoro. In ogni caso, anche se sei a casa, se hai un lavoro, in ospedale, in ufficio, ovunque. Vedi la differenza tra una persona che fa bene il proprio lavoro e chi taglia gli angoli. Gli angoli non bisogna tagliarli, bisogna contornarli. Assolutamente. Allora Maria Laura, come sai i tempi in radio sono ahimè tiranni, noi ti ringraziamo davvero di cuore di questa tua bellissima testimonianza, sì. E ti auguriamo ovviamente di poter ancora continuare a formare tanti giovani giornalisti provenienti da ogni angolo del mondo, e che il messaggio di democrazia, di integrazione anche europea, che resta comunque fondamentale e forse davvero da riscoprire probabilmente, per quanti non sanno che oggi è la pace il vero valore agglutinante tra gli stati, mentre prima era la guerra, possa essere ricordato e conservato per te o comunque per tutti quelli della tua generazione e per tutti quelli della mia generazione, che come nuove, diciamo, menti si trovano a dover vivere con l'età adulta che, come dicevi prima tu, è davvero ricca di sfide che vanno vissute da quella più magari semplice ed umile a quella più importante, che riguarda le sfere professionali. Ovviamente ti auguriamo una splendida festa della donna, che ovviamente non è soltanto l'8 marzo, ma dovrebbe essere per tutto l'anno, e restiamo in contatto per quelle che saranno le future attività. Ti ringraziamo e ti auguriamo un'ottima serata. Ok, grazie a voi. Ok, arrivederci. Buongiorno. Ed eccoci qui con il nostro spazio musicale, già prima anticipato, anche qui parleremo di donne. Bello, che bello. Beh, naturalmente le donne nel jazz avremmo potuto fare, non so, una decina di puntate, quindi abbiamo dovuto con Paolo decidere, anche se non è lui qui, ma abbiamo deciso insieme di limitarci. E allora che cosa c'è di meglio se non le donne italiane? Oh, che bello! Nel jazz, quando si può, dobbiamo, perché sì, poi non sono necessariamente così conosciute quanto alcuni grandi uomini del jazz italiano, ma sono sicuramente altrettanto brave. Come qualcuna poi vedremo, anzi è estremamente brava. Sì, sì, è stata definita così. Esattamente, ma insomma direi iniziamo subito con la prima donna del jazz italiano, una pianista, compone, e si chiama Rita Marcotulli. Però così, tanto per iniziare in maniera un po' più particolare, facciamo sentire un pezzo che non è proprio un pezzo che nasce jazz, è un pezzo dei Pink Floyd. Questo che sono sfida, curioso. Ragazzi. Sì, perché Rita questo Marcotulli ha appena inciso un disco che si intitola Omaggio ai Pink Floyd, è un disco fatto da jazzisti, lei è una jazzista, però c'è una rilettura. E in particolare qual è il disco più famoso che tu ti ricordi dei Pink Floyd, George? Ce n'è uno che suona La parte nera della luna. Bravissimo, bravissimo. E in questo disco famosissimo del 73, The Dark Side of the Moon, c'era un pezzo cioè tutti erano particolari, non apriamo una parentesi su Pink Floyd, però c'era un pezzo in cui si sentivano dei soldi che cadevano all'inizio. Sì, money. E allora lo sentiamo adesso nell'interpretazione di Rita Marcotulli, vediamo se riuscite a riconoscerlo. Inconfondibile, anche se la rilettura è sicuramente particolare. Sì, una rilettura particolare, però a me piace molto, bellissima. Prego. È un po' più sfumata rispetto alla versione originale. Beh, sì, anche perché poi la voce entra più tardi e in questo caso la voce è sostituita dal sax. Sì. E Rita Marco Tulli, sicuramente, che appunto, come ho detto prima, è una grande pianista, ha fatto un arrangiamento notevole, devo dire molto molto interessante, che fa capire come anche il rock e il jazz si possono parlare e come i jazzisti amano il rock in fondo. Sì. Io credo che assolutamente i jazzisti amino il rock, perché non si può non amare la musica bella, e il rock sicuramente ha dei pezzi che sono straordinari, quindi... Sì, hai ragione, in fondo è poi quello che diciamo sempre anche noi, la musica si distingue fra musica bella e musica brutta, chi decide è chi la propone, quindi noi. Esattamente. E adesso vi faremo sentire qualcos'altro di molto bello, secondo noi, un'altra musicista italiana, compositrice e anche cantante, così la sentiremo come cantante, che a differenza di Rita Marco Tulli vive negli Stati Uniti. Rita Marco Tulli ormai vive invece in Italia, non l'avevamo detto. Chiara Civello, questo è il nome della musicista che vi proporremo, vive negli Stati Uniti, spesso viene anche in Italia, ma è basata a New York, e sia io che Paolo abbiamo avuto anche la possibilità di conoscerla la volta che di sentirla dal vivo. Sicuramente è una più che una promessa, infatti ormai è già al secondo disco, il primo disco da cui sentiremo questo pezzo è stato inciso nel 2005 con la casa discografica Verve, che è una delle più grandi case discografiche di jazz. Beh, insomma, è già stata apprezzata anche con il primo disco, non so se tu vuoi citare qualcosa, Giorgio. Insomma, bisognerebbe leggerli tutti, quindi io li leggo tutti, perché c'è del primo. Il Billboard Magazine ha scritto: la bellezza, lo charme e l'allure del debutto discografico della pianista, cantante, autrice Chiara Civello è la rivelazione di un nuovo anno. Quindi ed è pure giovanissima. Sì, è molto giovane. Sì, non l'abbiamo detto, ha 34 anni, è nata nel 75, quindi è molto giovane. Però ha 30 anni quando ha pubblicato il suo primo. L'International Herald Tribune l'ha definita una strabiliante combinazione di personalità, sensibilità ed eleganza, e udite udite, Tony Bennett l'ha definita la più grande cantante di jazz della sua generazione. E adesso sentiamo una canzone in italiano, perché poi lei canta anche in inglese e in portoghese, ma in italiano, si intitola Ora, tratto da Last Quarter Moon. Guardo dritto verso il mare, dietro l'orizzonte mi nasconderò, mi allontano, vado via, calpestando la mia nostalgia, c'è una strada solo mia da trovare. Ora che sto per partire, so che devo andare, che senza te, una valigia di paure, un peso nel cuore e tu dentro di me, c'è una luna anche per noi, dove io ti incontrerò se vuoi, riempi là dei sogni tuoi, ogni sera. Chiara Civello, ora, da Last Quarter Moon. Avete sentito che voce e anche che testo, direi, che è molto interessante, sì, bello, da seguire. Bello. Passiamo a un'altra cantante italiana che vive in Italia e che canta del jazz, molto interessante. Anche lei ha inciso recentemente un disco dal vivo, un disco dedicato a Billie Holiday, infatti si titola Omaggio a Billie Holiday, e non a caso questo pezzo che sentiremo è un pezzo importante, suonato e cantato da Billie Holiday. La nostra cantante si chiama Ada Montellanico, ed il pezzo che noi ascolteremo è un po' uno standard, appunto, composto nel 34, si intitola Autumn in New York, e appunto dovete considerare che è un omaggio a Billie Holiday, anche se la reinterpretazione è molto personale, naturalmente. Thank you. Autumn in New York. Why does it seem so inviting? Autumn in New York. It spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds and canyons of steel. Un'altra voce straordinaria, Ada Montellanico, in un classico, Autumn in New York, sicuramente un bellissimo omaggio a Billie Holiday. Passiamo rapidamente all'ultima proposta, ho sentito adesso due voci, ripassiamo ad una musicista che suona uno strumento, in questo caso un sassofono, quindi è uno strumento che suona un po' tutti i sax, in questo caso la sentiremo con un soprano, credo. Forse alterna sia il soprano che il tenore anche in questo pezzo, si chiama Ada Rovatti, e qui torniamo a un'altra italiana che in realtà vive a New York ormai, ha studiato qui in Italia e ha fatto tutto in Italia. In particolare Ada Rovatti chiaramente ha suonato con tantissime persone sulla scena newyorkese, è la moglie di Randy Brecker, un altro grande jazzista che suona la tromba, che suona anche in questo pezzo ritroveremo anche Mike Stern, chitarrista importantissimo nella scena del jazz, in particolare del jazz con delle tonalità rock. Ada Rovatti ha inciso vari dischi a suo nome, questo è tratto da un disco del 2003 che si intitola Under the Hat, e il pezzo si intitola Romance. In Romance da Under the Hat nel 2003, questo chiude il nostro spazio musicale dedicato alle donne nel jazz italiano. Donne che però, oltre ad essere jazziste, sono anche eclettiche. Fra l'altro Ada Rovatti, oltre ad essere appunto quella persona che abbiamo appena sentito, e quella jazzista che abbiamo appena sentito, è anche apparsa nel film Mona Lisa Smile, che voi tutti ricorderete, interpretato da Julia Roberts, quindi insomma... Sì, hai ragione, sono sicuramente personaggi che vanno oltre il fare musica in tanti casi. Bene, speriamo di avervi incuriosito, e adesso lasciamo spazio ad altri aspetti legati alle donne. Altri aspetti che introduciamo con una piccola sigla che è solo provvisoria per il momento e che è Librangolo. Anni 70, Radio Vecchia, San Buon Brodo. Cioè, mi è andato del vecchio, cioè incredibile. No, incredibile. Non a te. Allora, quindi un altro specchio delle donne, quindi la letteratura, i libri, che dai volti idealizzati, anime nobili o diaboliche, fino a donne tormentate dalle sorte con tante contraddizioni, fino alla donna emancipata, moderna, bambina, ragazza, donna, mamma, cioè ce le offre tutte, diciamo, e lo troviamo, la troviamo ovunque. vi offro qua un paio di volti interessanti, cominciando magari con La ragazza dall'orecchino di perla, che secondo me è il romanzo riuscito meglio della scrittrice Tracy Chevalier. Hrit, una domestica semplice ma con tantissima intuizione e amore per i colori e per la pittura, comincia il suo servizio nella casa del grande Vermeer. Riconoscendo le sue abilità, il pittore stringe un'amicizia, una certa amicizia con la ragazza, stabilendo un legame artistico che però sfiora anche l'amore. Un mondo alieno e pericoloso sta per risucchiare Hrit, significherà la sua rovina. Il modo perfetto per leggere il libro è guardando anche le riproduzioni dei quadri che danno sfondo alla storia, che insieme creano un mondo vivente e a colori, fiamminghi, molto, molto speciali. Nella vita... Scusa? Forse sì. Magari se vi capita anche magari di andare all'Aia a fare un salto e a riempirvi gli occhi e così creare questa atmosfera, vedrete anche il quadro. Maurizio House. Ecco, passiamo in un ambiente molto diverso, e cioè della corte di Enrico VIII, dove le donne causavano svolte storiche. Infatti è a causa di Anna Bolena che Enrico fondò la chiesa anglicana, indipendente dal Papa, che gli aveva rifiutato il divorzio da Caterina di Aragona. Il romanzo di Philippa Gregory, L'altra donna del re, cattura questo periodo, centrandosi sulla figura di Maria Bolena, finora poco conosciuta, che era infatti la prima ad essere l'amante del re. Maria, dolce e senza ambizioni, guidata dall'amore, lascia Anna, ambiziosa, forte e senza scrupoli, raggiungere il suo scopo, che, come ben sappiamo oramai, non le aveva portato la felicità. Raccomando il libro invece del film, siccome il libro infatti coglie perfettamente l'atmosfera degli intrighi di corte, soffia vita e profondità nei caratteri, è proprio impossibile metterlo giù. Ecco. Beh, Philippa Gregory è una straordinaria scrittrice. Sì, ma questo è proprio il suo meglio, secondo me, comunque. Lei tanto quindi... ha scritto sulle sorti anche di Elisabetta I. Sì, esatto. Una delle figlie, tra l'altro, di Enrico VIII. Anzi, la figlia di... No. L'erede. Se mi permettete, però, correndo, passo da Shirley, che è una delle creature meno note di Charlotte Brontë. Sullo sfondo dei conflitti religiosi dell'Ottocento ci regala due volti femminili, contrastanti ma affascinanti. Shirley, ereditiera. Ereditiera è ragazza uomo con libertà d'azione, è un carattere selvaggio ma guidato da un cuore nobile. E Caroline, povera, timida e buona, desiderosa di una felicità semplice e domestica. Romanzo molto diverso da Jane Eyre, che ho menzionato già purtroppo troppe volte per poter adesso soffermarmi sulla fantastica Jane. Ma anche questo libro è bellissimo, è molto diverso, ma vi raccomando di conoscere quest'altro volto di Charlotte Brontë. Ci sembra di capire, magari mi sbaglio, ma mi sembra di capire che tu abbia una passione per Brontë. Sì. Soprattutto Charlotte, ma anche Emily. Sì, ma soprattutto Charlotte. Ma non pensate che demordo, perché ancora vorrei menzionarvi un ambiente completamente diverso. Nei romanzi gialli, dei romanzi a quattro mani veramente, di Nikki French, le donne sono forti nel loro bisogno di sapere la verità. Si tratta di donne che vivono una vita normalissima, senza alcuna stranezza, finché la tragedia la travolge questa vita. Come quella di Ellie, di cui il marito ha un incidente con una donna sconosciuta a fianco. La conclusione è ovvia per tutti, avrà avuto un amante. L'intuizione e l'amore di Ellie negano questa possibilità, anche se la sua ragione a volte cede. Quindi non demorde finché non arriva alla triste verità ed alla scoperta di un quasi perfetto crimine. Il romanzo si intitola Cosa fare se qualcuno muore, ma penso che ancora in italiano non si trovi. Prima o poi però arriva. Sì, infatti. E infatti correndo, questo lo devo menzionare. Assolutamente. La Veronica di Paolo Coelho, da Veronica decide di morire. Veronica ha una vita piena ma non felice, quindi un giorno decide di suicidarsi. Viene salvata, poi ricoverata in un istituto psichiatrico, dove le comunicano che in seguito a danni subiti dal suo cuore non vivrà a lungo. La ragazza comincia un viaggio verso l'essenza di se stessa, liberandosi dai vincoli che alla fine non le erano imposti da nessuno, solo da lei stessa. La sua storia vi darà energia positiva per settimane, anche se non ci credete, sentendo semplicemente questa storia. Il tempo tiranno, adesso l'ho detto io, quindi la nostra visita nella galleria per adesso finisce senza Anna Karenina o senza della donna che leggeva troppo di Nachiavani Bahiyih, senza il ritratto di signora di Henry James, senza Fanny Price o senza Lizzie di Jane Austen e di tanti tanti tanti tanti tantissimi volti ancora. Beh sì, la galleria delle donne in letteratura è vasta e potremmo veramente... E variegata. Consacrare ore e ore a questa importante espressione artistica che nel tempo ha permesso comunque alle donne di raccontare sfaccettature magari poco note ai più. George... Dobbiamo chiudere. Dobbiamo chiudere. Allora io faccio un annuncio a tutte le donne che ci sono all'ascolto e anche quelle che non ci stanno ascoltando. Passate parola. Siate voi le vere persone, le vere donne che difendono la democrazia. Ve la do, ve la consegno ufficialmente questa sera. La democrazia è in mano alle donne, per piacere, difendetela. Allora, io saluto Dani M. Regia, Fiordaliso come al solito, straordinario, Stefano che ci fa sempre conoscere volti nuovi della musica non solo italiana e ovviamente vi aspettiamo martedì prossimo per una grossa, grossissima sorpresa. Ciao! Ciao a tutti! Avete ascoltato Brussellando, a cura della redazione culturale di Radio Alma.